Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ottobre 1860. La pioggia era venuta, la pioggia era andata via, ed il sole era risalito sul trono come un re assoluto che, allontanato per una settimana dalle barricate dei sudditi, ritorna a regnare iracondo ma raffrenato da carte costituzionali. Don Fabrizio, insieme a Teresina d'Arguto Cani e a Don Ciccio Tumeo seguace, passava lunghe ore a caccia dall'alba al pomeriggio. La fatica era fuori d'ogni proporzione con i risultati, perché anche ai più esperti tiratori riesce difficile colpire un bersaglio che non c'è quasi mai, ed era molto se il principe, rincasando, poteva far portare in cucina un paio di pernici, così come Don Ciccio si reputava fortunato se a sera poteva sbattere sul tavolo un coniglio selvatico, il quale del resto veniva ipso facto promosso al grado di lepre, come si usa da noi. Un'abbondanza di bottino sarebbe stata d'altronde per il principe un piacere secondario. Il diletto dei giorni di caccia era altrove, suddiviso in molti episodi minuti. Cominciava con la rasatura nella camera ancora buia al lume di una candela, si acuiva nel traversare i saloni addormentati, nello scansare alla luce traballante i tavoli con le carte da gioco in disordine, fra gettoni e bicchierini vuoti, e nello scorgere fra esse il cavallo di spade che gli rivolgeva un augurio virile, nel percorrere il giardino immoto sotto la luce grigia, nel quale gli uccelli più mattinieri si strizzavano per far saltar via la rugiada dalle penne, nello sgusciare attraverso la porticina impedita dall'edera, nel fuggire, insomma. E poi sulla strada, innocentissima ancora ai primi albori, ritrovava Don Ciccio sorridente tra i baffi ingialliti, mentre sacramentava affettuoso contro i cani. A questi, nell'attesa, fremevano i muscoli sotto il velluto del pelo. Si era subito lontani da tutto, nello spazio e ancor più nel tempo. Donna Fugata, con il suo palazzo e i suoi nuovi ricchi, era appena a 2 miglia, ma sembrava sbiadita nel ricordo, come quei paesaggi che talvolta si intravedono allo sbocco lontano di una galleria ferroviaria. Le sue pene e il suo lusso apparivano ancor più insignificanti che se fossero appartenuti al passato, perché rispetto all'immutabilità di queste contrade fuori di mano sembravano far parte del futuro. Essere ricavati non dalla pietra e dalla carne, ma dalla stoffa di un sognato avvenire, estratte da una utopia vagheggiata da un Platone rustico e che per un qualsiasi minimo accidente avrebbe anche potuto conformarsi in fogge del tutto diverse o addirittura non essere. Sprovviste così anche di quel tanto di carica energetica che ogni cosa passata continua a possedere, non potevano più recar fastidio. Don Fabrizio ne aveva avuti parecchi di fastidi in questi 2 ultimi mesi. Erano sbucati da tutte le parti come formiche all'arrembaggio di una lucertola morta. Alcuni erano spuntati fuori dai crepacci della situazione politica. Altri gli erano stati buttati addosso dalle passioni altrui, altri ancora, ed erano i più mordaci, erano germogliati dal suo proprio interno, cioè dalle irrazionali reazioni sue alla politica e dai capricci del prossimo. Capricci chiamava, quando era irritato, ciò che da calmo designava come passioni. E questi fastidi se li passava in rivista ogni giorno. Li faceva manovrare, comporsi in colonna o spiegarsi in fila sulla piazza d'armi della propria coscienza, sperando di scorgere nelle loro evoluzioni un qualsiasi senso di finalità che potesse rassicurarlo, e non ci riusciva. Bande, mortaretti, campane, zingarelle, tedeum all'arrivo, va bene. Ma dopo, la rivoluzione borghese che saliva le sue scale nel frac di Don Calogero, la bellezza di Angelica che poneva in ombra la grazia contegnosa della sua Concetta, Tancredi che precipitava i tempi dell'evoluzione prevista e cui anzi l'infatuazione sensuale dava modo di infiorarne i motivi realistici, gli scrupoli e gli equivoci del plebiscito, le mille astuzie alle quali doveva piegarsi lui, il Gattopardo, che per tanti anni aveva spazzato via le difficoltà con un rovescio della zampa. Tancredi era partito già da più di un mese e adesso se ne stava a Caserta, accampato negli appartamenti del suo re. Da lì inviava ogni tanto a Don Fabrizio lettere che questi leggeva con sorrisi e ringhi alternati e che poi riponeva nel più remoto cassetto della scrivania. A Concetta non aveva scritto mai, ma non dimenticava di farla salutare con la consueta affettuosa malizia. Una volta anzi aveva scritto: «Bacio le mani di tutte le gattopardine e soprattutto quelle di Concetta», frase che venne censurata dalla prudenza paterna quando la lettera venne letta alla famiglia. Angelica veniva a far visita quasi ogni giorno, più seducente che mai, accompagnata dal padre o da una cameriera iettatoria. Ufficialmente le visite erano fatte alle amichette, alle ragazze, ma di fatto si avvertiva che il loro acme era raggiunto al momento in cui essa chiedeva con indifferenza: «E sono arrivate notizie del principe?» Il principe, nella bella bocca di Angelica, non era, ahimè, il vocabolo per designare lui, Don Fabrizio, ma quello usato per evocare il capitanuccio garibaldino, e ciò provocava in Salina un sentimento buffo tessuto nel cotone dell'invidia sensuale e nella seta del compiacimento per il successo del caro Tancredi, sentimento a conti fatti sgradevole. Alla domanda rispondeva sempre lui stesso. In forma meditatissima riferiva quanto sapeva, avendo cura però di presentare una pianticella di notizie ben rimondata alla quale le sue caute cesoie avevano asportato tanto le spine, narrazioni di frequenti gite a Napoli, allusioni chiarissime alla bellezza delle gambe di Aurora Schwarzwald, ballerinetta del San Carlo, quanto i boccioli prematuri. «Dammi notizie della signorina Angelica. Nello studio di Ferdinando II ho visto una Madonna di Andrea del Sarto che mi ha ricordato la signorina Sedara». Plasmava così una immagine insipida di Tancredi, assai poco veritiera, ma così anche non si poteva dire che egli recitasse la parte del guastafeste o quella del paraninfo. Queste precauzioni verbali corrispondevano assai bene ai propri sentimenti nei riguardi della ragionata passione di Tancredi, ma lo irritavano in quanto lo stancavano. Esse erano del resto soltanto un esemplare dei 100 raggiri di linguaggio e di contegno che da qualche tempo era costretto a escogitare. Ripensava con rimpianto alla situazione di un anno prima, quando diceva tutto quanto gli passasse per il capo, sicuro che ogni sciocchezza sarebbe stata accettata come parola di Vangelo e qualsiasi improntitudine come noncuranza principesca. La sensazione di trovarsi prigioniero di una situazione che evolvesse più rapidamente di quanto fosse previsto era particolarmente acuta quella mattina. La sera prima, infatti, la corriera che dentro la cassa giallina portava irregolarmente la scarsa posta di Donna Fugata gli aveva recato una lettera di Tancredi. Prima ancora di esser letta, essa aveva proclamato la propria importanza, scritta com'era su sontuosi foglietti di carta lucida e con calligrafia chiara e armoniosa. Si rivelava subito come la bella copia di chissà quante bozze disordinate. Il principe in essa non veniva chiamato Zione, appellativo che gli era divenuto caro, ma carissimo zio Fabrizio. Formula che possedeva molteplici meriti, quello di allontanare fin dall'inizio qualsiasi sospetto di Celia, quello di far presentire l'importanza di ciò che sarebbe stato scritto in seguito, quello di permettere, all'occorrenza, di mostrare la lettera a chiunque ed anche quello di riallacciarsi ad antichissime tradizioni religiose che attribuivano un potere vincolatorio alla precisione del nome invocato. Il carissimo zio Fabrizio, dunque, era informato che il suo affezionatissimo e devotissimo nipote era da 3 mesi preda del più violento amore e che né i rischi della guerra, leggi passeggiate nel parco di Caserta, né le molte attrattive di una grande città, leggi i vezzi della ballerina Schwarzwald, avevano sia pure un momento potuto allontanare dalla sua mente e dal suo cuore l'immagine della signorina Angelica Sedara. Qui una lunga processione di aggettivi volti ad esaltare la bellezza, la grazia, la virtù, l'intelletto dell'oggetto amato. Attraverso nitidi ghirigori d'inchiostro e di sentimenti si diceva poi come il Tancredi stesso, cosciente della propria indegnità, avesse cercato di soffocare il proprio ardore. Adesso però l'amore aveva superato il ritegno ed egli veniva a pregare l'amatissimo zio di volere a suo nome richiedere la mano della signorina Angelica al suo stimabilissimo padre. Tu sai, zio, che io non posso offrire alla fanciulla amata null'altro all'infuori del mio amore, del mio nome e della mia spada. Dopo questa frase, a proposito della quale occorre non dimenticare che allora ci si trovava in pieno meriggio romantico, Tancredi si abbandonava a lunghe considerazioni sulla opportunità, anzi sulla necessità, che unioni tra famiglie come quella dei Falconeri e quella dei Sedara, una volta si spingeva fino a scrivere arditamente «Casa Sedara», venissero incoraggiate per l'apporto di sangue nuovo che esse recavano ai vecchi casati e per l'azione di livellamento dei ceti, che era uno degli scopi dell'attuale movimento politico in Italia. Questa fu la sola parte della lettera che Don Fabrizio leggesse con piacere, non soltanto perché essa confermava le sue previsioni e gli conferiva l'alloro di profeta, ma anche perché lo stile, riboccante di sottintesa e ironia, gli evocava magicamente la figura del nipote, la nasalità beffarda della voce, gli occhi sprizzanti, malizia azzurrina, i ghignetti cortesi. Quando poi Don Fabrizio si avvide che questo squarcio giacobino era esattamente racchiuso in un foglio, così che volendo si poteva far leggere la lettera pur sottraendone il capitoletto rivoluzionario, la sua ammirazione per il tatto di Tancredi raggiunse lo zenith. Dopo aver narrato brevemente le più recenti vicende guerresche ed espresso la convinzione che entro un anno si sarebbe raggiunta Roma, predestinata capitale augusta dell'Italia nuova, si ringraziava per le cure e l'affetto ricevuti in passato e si concludeva scusandosi per l'ardire avuto nell'affidare a lui l'incarico dal quale dipende la mia felicità futura. Poi si salutava, lui solo. La prima lettura di questo straordinario brano di prosa diede un po' di capogiro a Don Fabrizio. Egli notò di nuovo la stupefacente accelerazione della storia. Per esprimersi in termini moderni, diremo che egli venne a trovarsi nello stato d'animo di una persona che, credendo oggi di essere salito a bordo di uno degli aerei paciocconi che fanno il cabotaggio fra Palermo e Napoli, si accorge invece di trovarsi rinchiuso in un apparecchio supersonico e comprenda che sarà alla meta prima di aver avuto il tempo di farsi il segno della croce. Un secondo strato, quello affettuoso della sua personalità, si fece strada ed egli si rallegrò della decisione di Tancredi, che veniva ad assicurare la sua soddisfazione carnale effimera e la sua tranquillità economica perenne. Dopo ancora però notò l'incredibile sicumera del giovanotto che postulava il proprio desiderio come già accettato da Angelica. Ma alla fine tutti questi pensieri furono travolti da un grande senso di umiliazione per trovarsi costretto a trattare con Don Calogero di argomenti tanto intimi e anche da un fastidio per dovere l'indomani intavolare trattative delicate con l'uso di quelle precauzioni di accorgimenti che ripugnavano alla sua natura presunta leonina. Thank you. contenuto della lettera venne comunicato da don Fabrizio soltanto alla moglie, quando già erano a letto sotto il chiarore azzurrino del lumino a olio incappucciato nello schermo di vetro. Maria Stella dapprima non disse parola, ma si faceva una caterva di segni di croce. Poi affermò che non con la destra ma con la sinistra avrebbe dovuto segnarsi. Dopo questa espressione di somma sorpresa si scatenarono i fulmini della sua eloquenza. Seduta nel letto, le dita di lei gualcivano il lenzuolo mentre le parole rigavano l'atmosfera lunare della camera chiusa, rosse come torce iraconde. Ed io, che avevo sperato che sposasse Concetta, un traditore, come tutti i liberali della sua specie, prima ha tradito il re, ora tradisce noi, lui, con la sua faccia falsa, con le sue parole piene di miele e le azioni cariche di veleno. Ecco che cosa succede quando si porta nella casa gente che non è tutta del vostro sangue. Qui lascio irrompere la carica di corazzieri, delle scenate familiari. Io l'avevo sempre detto, ma nessuno mi ascolta. Non ho mai potuto soffrirlo, quel bell'imbusto. Tu solo avevi perduto la testa per lui. In realtà anche lei era stata soggiogata dalle moine di Tancredi. Anch'essa lo amava ancora. Ma la voluttà di gridare «la colpa è tua», essendo la più forte che creatura umana possa godere, tutte le verità e tutti i sentimenti venivano travolti. E adesso anche la faccia tosta di incaricare te, suo zio, principe di Salina e padrone suo 100 volte, padre della creatura che ha ingannato, di fare le sue indegne richieste a quel farabutto, padre di quella squadrina. Ma tu non lo devi fare, Fabrizio, non lo devi fare, non lo farai. La voce diventava acuta. Il corpo cominciava a irrigidirsi. Don Fabrizio, ancora coricato sul dorso, sogguardò da un lato per assicurarsi che la valeriana fosse sul cassettone. La bottiglia era lì ed anche il cucchiaio d'argento posato di traverso sul turacciolo. Nella semioscurità glauca della camera brillavano come un faro rassicurante, eretto contro le tempeste isteriche. Un momento volle alzarsi e prenderli, però si accontentò di mettersi a sedere anche lui, così riacquistò una parte di prestigio. «Stelluccia, non dire troppe sciocchezze, non sai quel che dici. Angelica non è una sgualdrina, lo diventerà forse, ma per ora è una ragazza come tutte, più bella delle altre, e forse anche un tantino innamorata di Tancredi come tutti. Soldi intanto ne avrà. Soldi nostri, in gran parte, ma amministrati sin troppo bene da Don Calogero. E Tancredi di questo ha gran bisogno. È un signore, è ambizioso, ha le mani bucate. A Concetta non aveva mai detto nulla, anzi è lei che da quando siamo arrivati qui lo trattava come un cane. E poi non è un traditore. Segue i tempi, ecco tutto, in politica come nella vita privata. Del resto è più caro giovane che io conosca, e tu lo sai quanto me, stelluccia mia. 5 enormi dita sfiorarono la minuscola scatola cranica di lei. Essa singhiozzava adesso. Aveva avuto il buon senso di bere un sorso d'acqua e il fuoco dell'ira si era mutato in accoramento. Don Fabrizio cominciò a sperare che non sarebbe stato necessario di uscire dal letto tiepido, di affrontare a piedi nudi una traversata della stanza già freschetta. Per essere sicuro della calma futura, si rivestì di falsa furia. «E poi non voglio grida in casa mia, nella mia camera, nel mio letto! Niente di questi farai e non farai! Decido io, ho già deciso, da quando tu non te lo sognavi neppure! E basta!» La moglie era spaurita e guaiolava basso come un cucciolo minacciato. «Dormiamo ora. Domani vado a caccia e dovrò alzarmi presto. Basta! Quel che è deciso, è deciso. Buonanotte, stelluccia!» Thank you.